Il mondo dell'intelligence è affascinante, in particolare quello americano, dove abbiamo la CIA, l'NSA, ma è ancora più affascinante il mondo dell'intelligence legato all'attività di hacking. Oggi parliamo del furto di dati alla CIA, avvenuto nel 2016, pubblicato da Wikileaks, e di cui finalmente si sanno un po' di informazioni in più. Nel 2016, secondo quanto ricostruito, la CIA ha subito un attacco hacker da parte probabilmente di qualche dipendente interno, e in questo attacco sono stati sottratti dai 180 giga fino ai 34 terabyte circa. Perlomeno questo è quanto emerge dal report che è stato pubblicato oggi, che è stato analizzato in diversi articoli, ma che era disponibile già da giorni. Cos'era successo? Nel 2016 è venuto questo attacco hacker. Nel 2017 questi dati che erano stati sottratti sono stati pubblicati da Wikileaks sotto il nome di Vault 7, Vault 7. Questi dati sostanzialmente facevano riferimento al codice, al software prodotto da una squadra d'elite della CIA per effettuare incursioni e attacchi hacker mirati e quindi sottrarre informazioni. All'epoca, addirittura nel 2017, il governo americano annunciò che era stato costretto a sospendere alcune delle attività data la rilevanza delle informazioni pubblicate. Ora, cosa è successo? Era stato avviato un'analisi interna di ciò che fosse avvenuto e finalmente escono alcune informazioni. È uscito un report leggermente redatto, leggermente un eufemismo, parecchio redatto, pesantemente redatto, dove si descrivono effettivamente alcune problematiche interne alla CIA. Il punto principale è quello secondo cui, e questo è scritto proprio nel report, questa squadra d'élite, gli hacker della CIA, preferivano concentrarsi maggiormente sul software d'attacco, quindi su questi strumenti d'attacco per fare attacchi informatici, che piuttosto mettere in sicurezza i sistemi che utilizzavano. Questo cosa vuol dire? Se volessimo fare un equivalente con il mondo materiale, è come se le armi più sofisticate e segrete del nostro esercito venissero lasciate letteralmente fuori casa, senza alcun tipo di protezione, senza alcuna chiave, senza alcun tipo di sistema di videosorveglianza per controllare chi si avvicina e chi li prende. Questo è effettivamente quello che è avvenuto a tutti gli effetti e che è incluso nel report. Infatti, la CIA non prevedeva alcun tipo di sistema di monitoraggio degli accessi, c'erano persino l'usanza di condividere delle password, non c'era effettivamente sostanzialmente alcun modo per vedere cosa è stata andata a toccare e soprattutto fino a che quantità. Infatti, come si legge nel report, non è nemmeno chiaro se sono solamente 180 gigabyte di materiale oppure si arriva fino ai 34 terabyte di cui dicevo prima. C'è effettivamente una impossibilità di misurare la gravità dell'attacco subito. Un'altra questione molto preoccupante è quella che viene sottolineata dal senatore Ron Wyden, che ha ottenuto questo report e che si sta, il senatore sta lottando attivamente per aumentare i sistemi di controllo all'interno di queste agenzie americane. Un punto interessante è quello secondo cui se questi dati non fossero stati pubblicati da Wikileaks, quindi se non ci fosse stata la pubblicazione del leak, molto probabilmente la CIA non avrebbe mai saputo che quei software erano stati trafugati. Quindi ci troviamo addirittura in questa situazione. Molto spesso Wikileaks è stata, non molto spesso, è sempre accusata da parte del governo americano di attentare alla sicurezza pubblica nazionale. Ma in questo caso, se degli attori governativi stranieri, fosse la Russia, la Cina, l'Iran, avessero preso gli stessi software pubblicati da Wikileaks e li avessero sfruttati a proprio vantaggio, la CIA probabilmente non l'avrebbe mai scoperto. E questo è chiaramente un punto cruciale perché riapre la questione legata alle vulnerabilità che vengono ammassate e accatastate dalle agenzie governative e non vengono pubblicate, quindi non è permesso a chi sviluppa quei prodotti di sistemarli, di includere le patch, ma allo stesso tempo pone dei gravi quesiti su come queste agenzie, quindi i servizi segreti, l'intelligence, gestiscano questi arsenali, perché sono dei veri e propri arsenali. Esempi simili li abbiamo anche in Italia, non a livello delle agenzie governative di intelligence, ma leggermente più in basso, dove per esempio le procure, in un caso di captatori informatici, non sapevano che i server che avrebbero dovuto custodire i dati delle intercettazioni in realtà erano dei server vuoti. Chiaramente il quadro che si delinea è un quadro preoccupante. Sapere che un'agenzia governativa come la CIA, che ha al proprio interno una squadra d'elite, non riesce nemmeno a mantenere al sicuro i propri strumenti, è chiaramente preoccupante.